vinto al fine, o mio pudico amore, Ruggier mercè del prezioso anello, vide il deforme aspetto che nell'iniquo alcino, a forza d'artignota altrui par bello. Rimanti alle tue cacce e ai tuoi piaceri, perfidissima Ancina, fammi inganna al tuo core, trova il tuo amore. Io già riscossa un'anima dall'impegno selvaggio, e ben Ruggiero, la bellissima Alcina, la novella deità del tuo cor, come ti aggrada, quanto, oh quanto al tuo amore, quanto alla tua pietà, peggio mia bella, vanne, vanne d'Alcina, io non son quella. Forza crudel d'incanto, discolpa il mio error e mi difende. Va, gentil cavaliero, ella ti attende. Non ti basta il cordoglio che ti tormenta il sen. Vendetta io voglio. Ecco il dardo, ecco il petto, ove amor già ferì con gli occhi tuoi. Ora con la tua man morte ferisca. Oh, felice morire, se me concesso.